Radio Tripo International è una web radio personale, non ha entrate, utili, non ottiene alcun tipo di finanziamento, non trasmette spot pubblicitari. Le opere musicali programmate sono di tipo Creative Commons, precisiamo, Creative Commons, licenza attribution, by. Per ciò che concerne il resto, per i programmi parlati, ci rifacciamo all'articolo 21 della Costituzione italiana che dice: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Buon ascolto con i nostri programmi, un abbraccio a tutti da Radio Tripo International. Se la stampa non può essere soggetta a censure, eccoci qua in diretta, puntualissimi come ogni sera, se ci ascoltate nella puntata proprio in versione live. Se invece ci ascolterete in replica nel weekendone della radio, a tutti voi ben trovati e rimanete in nostra compagnia, perché a parte questo contenitore serale in compagnia di Andrea e in particolare in compagnia della nostra emittente radiofonica. Ben trovato a tutti e a tutte, rimarremo insieme per un'oretta. Ricordo il nostro account su Twitter, volete essere informati in tempo reale su quello che sta accadendo qua all'interno dello studio. Vi ricordo anche che abbiamo un account su Facebook, se volete diventare nostri amici. Oramai, insomma, chi non ha un account su Facebook, quindi insomma potete richiederci l'amicizia, noi l'accettiamo tranquillamente e insomma dialogare con noi in quel mezzo. Invece per le persone un po' più timide, un po' più riservate, ricordo ancora la nostra mail, che è la seguente: radiooltrepo@live.it, radiooltrepo@live.it. Intanto in studio squilla il telefono come le vecchie radio anni 70. Lo faccio sentire. Sentite, eh? Magari è qualcuno che fa una richiesta musicale. Scherzi a parte, parte immediatamente, scusate la ripetizione, il nostro programma articolo 21. Io sono Andrea, in questo contenitore preselare si parla un po' di tutto, in particolare tra poco i titoli della provincia pavese, a seguire qualche news reperita o online oppure su qualche quotidiano. Quest'oggi, visto e considerato che è uscito l'edizione del manifesto che costava 40 centesimi, ho subito colto la palla, insomma sono andato subito in edicola ad acquistarlo, visto che 40 centesimi, ragazzi, insomma, per i 40 anni di questo quotidiano. Quindi leggeremo anche qualche news da lì. Voi state lì perché si parte immediatamente con la canzone d'apertura di articolo 21, con molto molto raffreddore, scusate, questa sera sono un po' raffreddato, vabbè dai, ne parliamo tra poco. Ora primo disco. Thank you. Con questo grande disco ricordo ai nuovi amici e alle nuove amiche che Radio Oltrepò non trasmette assolutamente brani coperti dai diritti d'autore. Nella fattispecie la nostra emittente radiofonica si definisce web radio no profit personale e sul nostro sito www.radiooltrepo.too.it non espone il logo della SIAE e anche dell'altra società SCF perché non trasmettiamo quel genere di musica coperto dai diritti d'autore. Noi trasmettiamo della musica Creative Commons, in pratica la trovate sul sito per esempio yamendo.com. È musica che gli artisti hanno scelto di non farsi tutelare dalla SIAE, ma bensì di farsi tutelare da sei licenze sempre che si rifanno alla Creative Commons. Quindi è sbagliato secondo me definire una musica di pubblico dominio, perché puoi fare certamente molto con questa musica, trasmetterla in radio, ascoltartela a casa, scaricartela, però insomma bisogna pur sempre rispettare le licenze che vengono attribuite proprio alle canzoni. Discorso un po' contorto, e ora arrivano immediatamente, cosa arriva, indovinate? I titoli della provincia pavese, eccoli qua che arrivano. Lo ammetto, era un po' da radio anni 70 quello di cambiare la base e mettere insomma questa da sottofondo, però facendo tutto da solo al mixer, al microfono e anche da internet, leggendo notizie da internet, bisogna fare così ragazzi e ragazze. Spero apprezzerete comunque il modo goliardico che la nostra radio si pone con voi cari ascoltatori e care ascoltatrici. Vediamo immediatamente i titoli della provincia pavese, il nostro quotidiano per eccellenza. Nel taglio alto la vicenda di Brega, il medico che per esattezza il chirurgo che ha questo sempre secondo i giudici compiuto delle operazioni non proprio lecite. Brega merita 21 anni, il PM chirurgo malvagio e senza umanità, pensate un po'. In effetti da quello che ho visto in tele è uno sguardo molto molto impassibile, proprio di una persona assai fredda. Comunque rimando magari ai vari psichiatri, psicoterapeuti che sicuramente staranno studiando questo caso, il loro referto in questione. Comunque sulla provincia pavese nel taglio alto primeggia questo articolo. Nella parte centrale invece qua si parla di evasione fiscale. Pavia è un quarantenne denunciato anche perché avrebbe esercitato abusivamente per 9 anni, commercialista evasore totale. Secondo l'accusa non ha versato le tasse di 17 ditte, pensate un po'. Ora anche in questo caso la magistratura farà il suo corso, staremo a vedere insomma se questo commercialista verrà incriminato o magari verrà assolto, come capita spesso in questi casi. Ora ci spostiamo invece sempre nella parte centrale a sinistra, bel gioioso con un ariete, assalto al distributore. Ah, al distributore, pensate un po', di sigarette, quindi i ladri in questo caso si danno al tabacco. Probabilmente poi le andranno a vendere in qualche grande città, magari così, no, in modo poco legale. Nella parte bassa, perché scusate, nella parte centrale a sinistra non riesco a leggere bene i due piccoli riquadri, perché vi ricordo che stiamo leggendo la provincia pavese online, tanto per essere sempre molto telematici. Comunque, nella parte bassa, domenica bus gratuiti per lo stadio a tifare Pavia. Ed era l'ultima notizia per quanto concerne i titoli della provincia pavese. Tra poco vi leggerò qualche notizia che ho reperito dal giornale Il Manifesto. Non è sicuramente un modo per indirizzare una linea politica della nostra radio, non lo vuole essere, visto che acquisto pochi giornali. Oggi casualmente, visto che sapevo che costava 40 centesimi, io mi sono detto, ma va dai, prendiamo questo giornale, costa anche poco, e leggiamo quello che c'è scritto. Vorrei, diciamo così, tralasciare la parte politica, perché poi non vorrei che qualcuno pensasse a schieramenti di parte. La nostra radio non ha schieramento politico, è molto imparziale. Quindi vi leggerò qualche notizia che ho trovato all'interno del Manifesto. Questo accadrà tra poco. Ora mettiamo su un'altra canzone e vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Articolo 31. Mentre mi fumo una bella sigaretta, Andrea con voi ancora per un po'. Un tempo si diceva manda la canzone della regia, visto che faccio tutto da solo. Ecco qua il prossimo brano, sempre meraviglioso. Stai ascoltando la programmazione di Radio 3Po. Ovviamente ho fatto partire anche il jingle, così, no? Tanto da farla sembrare una radio così molto professionale. Ci prendiamo una pausa con questo bel brano di musica lounge che gira per i prossimi minuti su Radio Oltrepò. Buona serata a tutti. Thank you. State ascoltando il pre-serale giusto su Radio Oltre Po. Scusate per la papera, ma ho un forte raffreddore. In vostra compagnia Andrea, questa è la nostra grande musica. Abbiamo fatto un tuffo nel sound, diciamo così, lounge. Ci siamo rilassati un attimo ed ora continuiamo ancora con le nostre news, come anticipato poc'anzi, reperite questa volta dal giornale Il Manifesto. Anche Il Manifesto, come la maggior parte dei giornali, dà un sacco di spazio alla solita questione che in queste settimane, insomma, ha occupato i titoli della stampa, non solo quella cartacea ma anche la stampa televisiva e radiofonica, cioè il battibecco tra Silvio Berlusconi e Fini. Quindi tralascerei questo solito argomento. L'altra sera, mentre vedevo Ballerò, sentivo dire che ormai Fini e Berlusconi fanno maggioranza ma anche opposizione, con questi soliti diverbi che a mio avviso è giusto che ci siano all'interno di una coalizione di maggioranza ma anche di opposizione, per sentire un pochino tutte le campane e per non avere la voce solo di uno o di un del cosiddetto capo, no? Voi che ne pensate? Va bene, bando alle ciance, anche Manifesto dedica un articolo a Gianfranco Fini e a questo caso, direi di sorvolare. Poi per il resto questo giornale si occupa molto di sociale, temi che riguardano, diciamo così, la classe operaia, ma non solo. Si parla anche di carcere e c'è una notizia che ho trovato quest'oggi a pagina 5. Carceri, detenuto si uccide a Teramo. È il 22esimo dall'inizio dell'anno. Quello di Gianluca Protrino, 34 anni, è il 22esimo suicidio dall'inizio dell'anno che si consuma nella sovraffollati carceri italiani. Potrino, che si è tolto la vita nel penitenziario di Teramo, è stato trovato morto ieri mattina intorno alle 8 nella cella che condivideva con un altro detenuto scarcerato il giorno prima. Dagli agenti della polizia penitenziaria, insomma, emerge questo fatto, per l'appunto, che la polizia penitenziaria ha reso pubblico. L'uomo, originario di San Severino di Puglia, era detenuto dall'8 di ottobre scorso per associazione a delinquere legata al traffico di stupefacenti. Sull'episodio è intervenuto l'Osservatorio sulle morti in carcere, che denuncia la presenza di circa 400 detenuti nel carcere di Teramo, che ha, pensato un po', una capienza di 231 unità. Così ieri il capo del DAP, Franco Lonta, ha deciso di emanare una circolare contenente quattro misure per una umanizzazione delle condizioni di detentività. Verrà creato uno staff multidisciplinare che prenda in carico i detenuti a maggior rischio suicidio. Uno staff composto da volontari, ai quali verrà dato l'accesso al carcere fino alle ore 18. Aumenteranno le comunicazioni con i familiari e gli avvocati difensori, e i detenuti per reati minori potranno chiamare ai familiari direttamente con i telefoni cellulari. In via di sperimentazione saranno anche ampliati gli spazi e i momenti tra i detenuti e le loro famiglie. Direi che sia giusto, insomma, cercare di creare questo dialogo per non isolare già abbastanza isolati, molto molto isolati purtroppo, i cari amici detenuti. Anzi, visto che abbiamo letto l'articolo, chissà mai ci fosse anche qualche amico recluso che ci sta ascoltando, un abbraccio, un saluto anche a voi. E insomma, ci è sembrato giusto ricordare la figura di questa persona che è una delle tante che purtroppo giornalmente si tolgono la vita nel carcere. Comunque salutiamo anche chi ci ascolta dalle carceri, quindi in questo caso i cosiddetti fratelli che ascoltano magari anche la nostra radio, chi lo sa, con un computer, un collegamento internet, tutto è possibile. Un saluto anche a voi, continuiamo ancora con la musica, tra poco vediamo che cosa c'è di bello in televisione. Ascoltando la programmazione di Radio Tretò. Bene, bene, torniamo in onda con i programmi televisivi per questa serata. Partiamo con Rai 1 che propone alle ore 20:45 una partita di calcio, Coppa UEFA Barcellona-Inter. Ricordo alle 23:30 sempre su Rai 1 Porta a Porta con Bruno Vespa, per chi apprezza insomma il mondo politico italiano. Su Rai 2 alle 21:15 c'è un telefilm senza traccia, no, forse è meglio dire un film. Rai 3 alle 21:10 John Cale film. Rete 4 20:30, quindi ora Walker Texas Ranger telefilm. Canale 5 alle ore 21:11, qua specifico 9:11, Troni un film, no scusate, Troy un grande film. Italia 1 alle 21:15 c'è Air Spray, film con John Travolta. La 7 invece alle ore 21:10 c'è un film Fuga da Sobibor. L'inglese non è il mio forte, scusate. Questi erano i programmi ancora in analogico, almeno per quanto concerne l'Oltrepò Pavese. Poi vi ricordo che nel mese di maggio inizierà la sperimentazione con Rete 4 e Rai 2 sul digitale terrestre, quindi munitevi di questa di questo decoder per accedere alla nuova tecnologia digitale che quantitativamente, scusate, migliora notevolmente la visualizzazione del canale, perché non ci saranno più le mitiche interferenze che ci sono ora. Magari molti canali li vedete male, col digitale alla grande vedete tutto bene. Visto che parliamo di digitale e che tra poco parleremo di Sky TV Italia con i programmi, vi ricordo che c'è insomma una disputa in corso per quanto concerne l'assegnazione delle frequenze del digitale. Non solo Rai, Mediaset, canali magari locali, ma anche la mitica Sky di Murdoch sta cercando di entrare a possedere qualche canale nel digitale terrestre. Ovviamente Rai e Mediaset si stanno opponendo alla grande, perché sapete bene che se Sky entra anche nel mercato del digitale, a mio avviso è giusto, doveroso e una nazione che si ritiene libera di stampa, com'è che reclama il nostro jingle, deve accettare tutti, anche questo grande colosso che dà un po' fastidio a Mediaset, perché come si sa Sky e Mediaset sono due società in attivo e si stanno comportando veramente bene, soprattutto Sky, aumentano sempre di più gli abbonati e le produzioni cinematografiche sono di prima qualità, quindi quando c'è da fare qualche gara c'è sempre qualcuno che ha paura. Ora, visto che abbiamo parlato di Sky, vediamo un po' che cosa propone la piattaforma Sky per gli amici che, come sottoscritto, usufruiscono di questo servizio. Sky Cinema 1 alle ore 21, Prima TV, film drammatico, Cadillac Records. Alle 22.15, film horror Underworld, La ribellione dei Lincas. Sky Cinema 24 alle ore 21, film thriller, Io vi troverò. A seguire alle 22.40, un ennesimo film thriller, The International. Sky Cinema Family, il canale per tutta la famiglia, alle ore 21, film romantico, Love and Dance. A seguire alle 23.10, film commedia, Water Girl, perturbazioni d'amore. Riparte la base, non vi preoccupate. Sky Cinema X, alle 21.15, film drammatico, Sogni e delitti. Alle 23.10, film thriller, Impulse, i sensi ingannano. Questa sera Sky dà ampio spazio ai film thriller e anche qualcosina all'horror. Vediamo Sky Cinema Max, per l'appunto canale del thriller, dell'horror e della fantascienza. Alle ore 21, Prima TV, film thriller, Mortal College, che ovviamente il sottoscritto vedrà. Alle 22.40, film azione, Shark Attack 3, emergenza squali. Sky Cinema Mania alle 21 propone film drammatico, All In, la vita in gioco. A seguire alle 22.50, film drammatico, Dead Man Walking, condannato a morte. Sky Cinema Italia, il canale tutto italiano, alle ore 21, commedia Siamo Uomini o Caporali di Mastro 5 con Totò. A seguire alle 22.40, film western, Execution. Sky Cinema Classics alle ore 21, film avventura, Il Bounty. A seguire film commedia alle 23.15, Fiore di Cactus. alle 01 Film Thriller, l'uomo che sapeva troppo. Guardiamo ora invece Cult, canale 319, le ore 21, Film Commedia, Kitchen Stories, racconti di cucina. Alle ore 23, film drammatico, Prigioniera di un incubo. E concludiamo questa carrellata con il canale della Metro Golden Mayer 320 Sky. Alle ore 21, film avventura, Il Temerario. Alle 22.50, film commedia, Hollywood Shuffle. Questo è tutto per quanto direi poter segnalarvi questa sera. Direi ora invece di dare spazio per l'ennesima volta alla musica. Prima però vi ricordo che questa è Radio Oltrepò. Puoi seguirci su Twitter o anche su Facebook. Io sono Andrea e la trasmissione, guarda un po', si chiama Articolo 21. Radio Oltrepò International è una web radio personale, non ha entrate, utili, non ottiene alcun tipo di finanziamento, non trasmette spot pubblicitari. Le opere musicali programmate sono di tipo Creative Commons, precisiamo, Creative Commons, licenza attribution, by. Per ciò che concerne il resto, per i programmi parlati, ci rifacciamo all'articolo 21 della Costituzione italiana, che dice: tutti hanno diritto di manifestare, liberamente, il proprio pensiero, con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo, di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Buon ascolto con i nostri programmi, un abbraccio a tutti da Radio Oltrepò International. Thank you. altro bellissimo disco sulle onde di Radio Oltre Po. Ci siamo un attimo rilassati, vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Articolo 21 in compagnia di Andrea, in compagnia della nostra emittente radiofonica. Ribadisco ancora una volta tutti i vari contatti per entrare online con noi. Potete seguirci su Twitter, basta cercare Radio Oltre Po International, è una web radio personale, non ha entrate, utili, non ottiene alcun tipo di finanziamento, non trasmette spot pubblicitari. Le opere musicali programmate sono di tipo Creative Commons, precisiamo, Creative Commons, licenza attribution, by. Per ciò che concerne il resto, per i programmi parlati, ci rifacciamo all'articolo 21 della Costituzione italiana, che dice: tutti hanno diritto di manifestare, liberamente, il proprio pensiero, con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo, di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Buon ascolto con i nostri programmi. Un abbraccio a tutti da Radio Oltre Po International. Mi scuso ancora una volta, ma è partito il jingle in maniera autonoma mentre stavo parlando, ma sono cose che capitano. Comunque abbiamo rimediato con la base di Articolo 21. Andiamo avanti, ancora una volta una buona serata a tutti, salutiamo anche gli amici che ci ascolteranno in replica sia al termine del programma, e anche un saluto agli amici e alle amiche che ci ascoltano invece in replica al insomma sabato e anche al venerdì all'interno del weekendone di Radio Oltre Po. Qualche news che proviene dagli States. Purtroppo in questo ultimo periodo, in fatto di calamità naturali, disastri ambientali, eccetera, eccetera, siamo messi veramente, veramente male. Insomma, il 2012 è alle porte, speriamo che vada tutto a gonfie vele, no? Che ne dite? Dicevo, una notizia dagli Stati Uniti, la marea nera si avvicina alle coste, evacuata la piattaforma. La macchina di petrolio fuoriuscita dopo l'affondamento della piattaforma Deepwater Horizon continua incessantemente ad estendersi e arriverà probabilmente sabato sulle coste della Louisiana, facendo presagire la possibilità di un vero e proprio disastro ambientale negli Stati Uniti. Speriamo di no, che ne dite? I venti hanno sospinto nelle ultime ore la vasta macchia di greggio lontano dalla costa, ma la guardia costiera ritiene che sia di fatto inevitabile che arrivi comunque a riva per la fine della settimana. Ovviamente arrivi nella Louisiana. La chiazza nera intanto si è ulteriormente allargata, ormai misura circa 130 km nel suo punto più largo e si trova a 600 km a sud-est delle coste della Louisiana. Nel frattempo le autorità USA hanno disposto l'evacuazione di una piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico. Stando a quanto riportato dalla BBC Online, le persone impiegate sulla piattaforma Ocean sono state evacuate in seguito al pericolo di questa macchia di petrolio che si sta sempre di più avvicinando le coste della Louisiana. Speriamo in bene, e in particolare speriamo che si possa fare qualcosa per evitare un ennesimo disastro ecologico. Proprio purtroppo queste cose accadono molto molto spesso e insomma le varie associazioni, prima fra tutte Greenpeace, saranno sicuramente in prima linea ad aiutare la guardia costiera a risolvere questo problema. Speriamo che sia tutto risolto in bene, che ne dite? Questa è sempre Radio Oltre Po, io sono Andrea, vi ricordo che potete anche richiederci l'amicizia su Facebook oppure seguirci su Twitter, fate voi. Ci abbiamo anche una mail, se magari qualcuno non ha voglia di farsi sentire in prima persona, la mail è seguente: radio3po@live.it, radio3po@live.it per essere in contatto con noi. Ora che ne dite, ci spariamo un bel brano musicale dance che ho passato anche recentemente, una canzone che mi piace molto perché, diciamo così, si rifà alla musica barocca, alla musica classica, mantenendo però sonorità molto molto attuali. Lui è il Doc, il mitico Doc del Nord Europa con Madame de Pompidou. Buon ascolto a tutti su Radio Oltrepò. Doc. Madame de Pompadour excelled at an art which the majority of human beings thoroughly despise because it is unprofitable and ephemeral, the art of living. These are my rules of the royal entertainment of His Majesty King Louis. Nobody may join the society who is not an experienced actor. Beginners are not admitted. It is forbidden to change parts without the consent of all the other members of the society. Each person will state in which capacity he or she is joining. The absentee may not choose a substitute. This is to be done by the other members of the society. The absentee goes back to his original job on his return. Nobody may refuse a part because it is unflattering or tiring. These six rules apply to actors and actresses alike. Actresses. Works to be acted will be chosen by the actresses. They will fix the days of the performance. Sempre molto bravo questo produttore e artista svedese Doc, che ci ha riproposto Madame de Pompidou. Io ho voluto leggere un po' in francese, se volete magari leggerla all'inglese, Madame de Pompidou. Sto scherzando, scusate il pessimo inglese. Dicevamo di articolo 21 e di un'altra notizia che mi rende molto molto felice, perché finalmente, dopo molti tentennamenti, il governo italiano sta facendo qualche piccolo passo avanti sulle nuove e moderne tecnologie. Passi da formica, però pur sempre cose importanti che a mio avviso dovrebbero essere fatte se si vuole rimanere allineati al resto dell'Europa. Il ministro Brunetta finalmente ha introdotto la posta elettronica certificata. Da circa 6 mesi è già possibile utilizzare questo servizio, bisognava fare una richiesta, se non erro, all'INPS. Ora finalmente il caro Brunetta ha istituito un sito internet dove proprio richiedere gratuitamente, ogni cittadino può richiedere gratuitamente la sua posta elettronica certificata, per mantenere in maniera più costante e sicura i contatti con la pubblica amministrazione, ma non solo, è possibile anche scrivere a tutte le persone che hanno questo indirizzo certificato PEC, posta elettronica certificata. Io tempo fa avevo scritto a MAS della RAI per avere informazioni e spiegazioni sulla vicenda Santoro, ovviamente non mi ha risposto, però chissà se Masi dovrebbe introdurre anche lui la sua PEC, essendo posta elettronica certificata, a mio avviso dovrebbe quantomeno rispondere a chi scrive. Ora invece la nostra atmosfera si tinge di dance, un gran bel disco di musica house, poi ancora una canzone, anzi la canzone finale di Crush, che è la nostra sigla. Ora però si balla con One Nice Think Ultra Cut, grande grande house. Siamo veramente a livelli sublimi di house music. Sicuramente vi avrò fatto ballare, magari pensate al weekend che si sta avvicinando, giustamente che magari ci ascolti in replica venerdì o sabato, dice ma questo è impazzito, siamo già nel weekend. Un saluto anche proprio chi ci ascolta in replica o dopo la diretta oppure anche nel fine settimana. A voi buon divertimento con Articolo 21 su Radio Oltre Po. Che dire, siamo giunti al termine anche per oggi, è stata una bella trasmissione, sempre tutto in presa diretta, gli articoli vengono letti dal vivo, quindi non mi preparo niente prima, perché insomma tutta la radio è fatta con, passatemi il termine, molta generosità e goliardia, non so se è giusto definire insomma il nostro operato goliardico, ma penso proprio di sì, perché Radio Oltre Po, vi ricordo, è una radio open source, non paga un soldo per trasmettere, utilizza tutti dei software gratuiti tipo i WinUp, che ci consente di andare in onda, e poi noi ci appoggiamo a listentumeradio.com per quanto concerne lo streaming, che offre circa 500 ascoltatori collegati tutti assieme nel medesimo momento, e anche questo servizio è completamente gratuito. Radio Oltrepò è una vera e propria radio open source, come Linux, insomma non costa niente, siamo qua a divertirci e mi auguro che voi apprezzerete il mio operato molto molto amatoriale. Spero che insomma il nostro modo di fare radio vi piaccia, un po' stile anni 70, un po' stile retro, dai, che ne dite? Prima di congedarci ricordiamo ancora un po' tutti i contatti, se volete dialogare con me, con noi di Radio Oltrepò. Puoi richiedere l'amicizia su social network per eccellenza, cioè Facebook, basta cercare Radio Oltrepò e via, ci richiede l'amicizia. No, dovete cercare Radio Oltrepò Pavese, perché ci hanno concesso insomma questo nome per registrarci. Quindi basta cercare Radio Oltrepò Pavese, ci trovate su Facebook. Per chi invece non utilizza questo social network, magari a Twitter, potete anche trovarci su Twitter, basta cercare Radio Oltrepò e aggiungerci alle vostre notizie preferite. Noi quando saremo in onda saremo principalmente online su Twitter, perché dai dico la verità, non mi manda il computer in crash e quindi riesco a pubblicare news in tempo reale, quindi ci potete seguire direttamente su Twitter. È consigliato, diciamo così, è consigliato l'ascolto su Twitter, però noi poi risponderemo anche su Facebook a chi è che ci scrive, a chi è che ha qualcosa da dire sulla nostra radio, critiche ma anche, non so, commenti, considerazioni. Siamo qui per tutti voi, per accontentarvi. Bando le ciance, vi ricordo infine la mail, che è la seguente: radiooltrepo@live.it, radiooltrepo@live.it, per collaborare con noi. Adesso mi sono incartato, vabbè, da mezz'ora che sto parlando, scusate, ma capita, per discutere con noi, va bene. Lanciamo l'ultima canzone, che è il mio brano preferito attualmente, ed è un brano stupendo. Lui è Jamison Young, scusate, con Crush. Vi ricordo che al termine del programma riparte alla grande la nostra replica fino alle 24, e poi quando ci ascoltate magari, non so, nel weekend eccetera eccetera, la replica c'è sempre e spero giunga gradita. Un abbraccio ancora una volta a tutti da parte di Andrea, ci ritroviamo ancora, a Dio piacendo, nei prossimi giorni su Radio Oltrepò. Buonanotte a tutti, oppure buon proseguimento di programmi radiofonici con la nostra emittente. Ciao ciao, bye bye, e ora Crush. Stai ascoltando la programmazione di Radio Oltrepò. Down. You don't have to crush me. You don't have to put